blocco mi ha fatto così. Non toccare me la mia famiglia. Sto tranquillo che fumo vaniglia. Corro forte, siamo i primi in pista. Giovane, giovane, giovane, fuori classe. Giovane, giovane, giovane, fuori classe. Giovane, giovane, giovane, fuori classe. Fuori, giovane, fuori classe. Giovane, giovane, fuori classe. Plaza campione come Ronaldo. Scemo, mi stavo solo allenando. Se ora sono cazzi, sono sceso in campo. Dici palle nelle barre. Dalle stalle, ma alle stelle. Coreati nelle palle. Cicatrici sulla pelle. Impegniamo con le guardie avanti. Faccia sporca come trafficanti. Nella zona meglio che ti calmi. Frate, c'ho il contatto da tutte le parti. Corro, corro, faccio passi avanti. I miei ragazzi pazzi in casa con le armi. Siamo bravissimi ma manco santi. Non ci calmi manco coi calmanti. Manco ci credeva questo. Non voglio morire presto. Bravo sì ma minca fesso. Nel no blocco buio pesto. Nuovo giorno, nuovo arresto. Io ci credo nel successo. Nella gabbia io non ci finisco. Muoio da leggenda come Jackson. Sì, sto blocco mi ha fatto così. Trovi tutto dentro gli angoli. Fuori per i soldi facili. Sono a tavola coi diavoli. Ehi, ehi. Sono a tavola coi diavoli. Questi mi offrono sti calici. Io questi ragazzi magici. Sì, sto blocco mi ha fatto così. Non toccare me la mia famiglia. Sto tranquillo che fumo vaniglia. Corro forte, siamo i primi in pista. Giovane, giovane, giovane, fuori classe. Giovane, giovane, giovane, fuori classe. Giovane, giovane, giovane, fuori classe. Fuori, giovane, fuori classe. Giovane, giovane, fuori classe. Ricordo in tasca non c'era niente. Trovaci, trovaci nelle piazze. Dentro le tasche per bei diversi. Ora muoviamo le masse. Mangiamo pesce come non bastasse. Tieniti le frasi fatte. Hai la faccia bianca come le scarpe. Sono fuori e do spettacolo. Plaza, plaza, plaza magico. Più puttane sembra Mykonos. Pussi facciamo un triangolo. Dimmi come siamo messi. Fuori classe sì li ho messi. Noi di notte stiamo svegli. Pensiamo a nuovi progetti. Alziamo la coppa Wembley. Questo blocco mi ha fatto così. Alcuni solo rimangono. Parla, parla ma noi siamo qui. Pure se il mio nome infangano. Plaza il nome mollo. Sanno bro, stavo solo nello studio. Tutti quanti mi snobbavano. Ma sul cielo che mi richiamano. Giovane, giovane, giovane, giovane, no. Spendo sti soldi, tanto poi li rifarò. Viviamo oggi, ma già domani io no, non lo so. Scadi all'emoji, in tasca Nokia, nell'altra l'iPhone. Sì, sto blocco mi ha fatto così,